Robby Rommi, per carità, ragazzi. Tutti voi chi sono? Salve, non l'ho sentito. No, non l'ho sentito, ieri l'ho sentito, oggi no. Non si è fatto sentire ancora. Quale stai usando? Quale che stai usando? Ci sento basso. Ah, adesso va bene. Quale inverno? No, l'ho toccato più, no. C'è una dispersione di energia già. Già, c'è una dispersione. Non stracchire a calarmi bene in casa. Tu gioco con le mani e manca la massa. E cazzo, tu la salda è per la corrente. E non ci sia. No, ci riesci a cavalli che sono qui a 13, cazzo. Ma stai sempre un capo, ancora c'è quello di schiacciapalle. Da poi in tasca c'è un chi è da parecchio che c'ha una dispersione. E allora, cazzo, basta che lo caccia al visto, si può immaginare. E allora, perché sta? Sì, sono andato, ma giocava tutto. E ha comprato con l'altro mi lo faccio. Perché qui, quando attacco qui su, mi lo faccio. Ah? Non ci ho badato, non ci ho badato. Beh, così la fa bene sempre, capito? E funziona bene, solo che cazzo, la corrente non ci deve essere sull'antenna, invece c'è la corrente. Aspetta un attimino, mi sono messo le cuffie perché c'è l'altra tua accesa. Ma io non mi sono accorto fino a Valtieri, capito? Così, guardando, provando con cacciavite, ho trovato visto che sull'antenna c'era corrente e ho provato ad attaccare l'alimentatore, a cambiare il cavo, a cambiare l'alimentatore ancora, con la massa che avevo messo, insomma tre giorni ma no, al momento ogni tanto, ma diciamo quasi e non sono riuscito mai a sapere da dove cazzo era. Anche prima pure l'alimentatore dopo, cazzo. Però fa anche con l'alimentatore, cosa era? Era parecchio. Non scorsa, non è la scorsa. Ma mi accende il cacciavite, sull'antenna c'è corrente, capito? Magari è corrente leggera, però c'è la corrente, capito? Ed è dall'apparecchio, non dall'alimentatore, perché ho provato a cambiare l'alimentatore ed è lo stesso. È dall'apparecchio che c'è una dispersione sull'antenna, ecco, sull'attacco dell'antenna. Perché no? E adesso ci ho messo la massa, però quando lo tocco la massa e quando lo tocco con la vista, corrente non ce n'è. Lo mollo e c'è corrente. C'è un cazzotto. Ma me lo faccio con quell'apparecchio, capito? Perché quando lo spengo e attacco questo che c'ho adesso, corrente non c'è, quell'altro è perfetto e non ce l'è corrente sull'antenna. Mentre se spengo questo, oppure se accendo anche questo, e accendo mi darà corrente sul cacciavite. Mi accende il cacciavite, mi dice, si accende il cacciavite. Se la massa la tocco con le mani, allora manca la corrente. E allora che mi interessa? Io, senz'altro, questo da quando l'ho preso, magari non mi sono mai accorto che aveva una distrazione, capito? Ma a Valtieri è che così, provando un capo dell'antenna, ho visto che c'era la corrente. Ma non pensavo che era dall'apparecchio. A benzina pensavo di andare al mercatore, ho cambiato il mercatore, ho cambiato il caso, ho distaccato l'accordatore, ma cos'è che non l'ho fatto? Mi accende la corrente, mi accende sempre il cacciavite, scorsa non me ne va, perché io la tocco, scorsa non me ne va, però mi accende il cacciavite, cazzo, il cacciavite Assente, c'è per accendere con l'albergo, la non ci possono forse accendere. Ah, no, sto usando le precedenti barre adesso, con la scatola di pianisti. Ma è vero, capisco, non ho... Infatti sta più bene, capisco. Ma appena c'è a caso, qua se si è accendere questo, capisco. Quella là, cosa... C'è una settimana che non lo tocco. Io so... perché sto facendo vita qua adesso, capisco. Che cos'è? Mi sono accorto per quello, perché c'ero sempre qua io, capisco. Mangiare, fare male alla malattia, capisco, fa fastidio al dentista. E dopo un salto, sono riuscito a capire che era dall'apparecchio. Sta distorsione dell'apparecchio. Ah, ti ha detto, cosa faccio? Siccome sul filtro c'è un filo di massa, no? Ho provato l'attaccato all'attacco dell'apparecchio, ma è lo stesso, non lo elimina, capisco. Se lo tocco con le mani mi elimina quella corrente. E che l'ho fatto quella. Ti parlo ugualmente, non mi interessa. Non succede niente, poi dai che si pulita e si la piglia a casa, e i dubbai si è girato. Ma no, si pulita, non lo faccio una corrente leggera, capito? Poi è la distorsione, c'è qualche filo all'interno che sta toccando qualche filettino, capito? E c'è la distorsione di corrente. Ma sto ancora cannonata, 4 watt, insomma, è omologato questo, 40 canale, ma è piccolino, ma già fa, è un bombone, perché c'è anche il parlaporta qua, capito? Ha detto l'accordatore, l'ho aperto, ho controllato le saldature, gatta. Tutti lo mandano lì, lo mandano, già le mesi più, già ne sarà una più. Per un paese, oggi mi sono avvicinato che darà parecchietto, perché adesso attento, se metto cattolizia solo te non c'è le corrente, ti seguo questo, attento, quello là mi attende la corrente, la cattolizia, per immaginare. E allora, tre alimentatori, c'è tre capi, ho cambiato, e poi dove vedi? Già 3-6 ragazza che mi ha fatto via un capo e già mi sono riuscita a bere un via e la farina. Magari io stavo parlando però se si accorge che c'è la distorsione, capito? Però non è che... ma se la farina è normale, capito? Anche se c'è quella distorsione, non ha dato mai fastidio, mi sentivo bene. Strano tutto, è successo anche dall'altra parte a me una volta, col Galaxy mi era successo, dall'altra camera, una volta. Così provando, avevo capito, prova a fare, ho visto che c'era corrente sull'antenna. Allora l'ho fatto. Ho cominciato a distaccare le prese, ho girato le prese, tutte le prese, e mi è sparita. C'era 4 anni fa, e adesso tutto è qua, però qua l'ho fatto perché ho girato anche le prese, ho anche la presa che ha muro, guarda, ho controllato, ed è normale, capito? Dove vedi? Sta fastidio al capo, già l'ha già avuto la buca. E allora, adesso corretto perché quello è distaccato. Se lo accendo, di attendere il cacciavite. Oppure tocco l'antenna con le mani e la massa che c'è e manca la corrente, capito? Ecco perché dico, cazzo, ho toccato con le mani massa, manca la corrente. Se io la mollo c'è la corrente, ma questo costa lo usato. Ma adesso è cosa leggera perché cazzo l'ho toccato con le mani lì. e non me le ascolta nulla, cazzo. Però la cazzo vista prova a farsi e ve lo accendi, lo capisci? E tocca qua, e tocca là, tocca domani, tocca domani. E ho capito che, perché ho cambiato anche l'alimentatore, l'ho cambiato. Però c'è lo stesso, dopo il salivo ho provato e già osservato che dalla parecchia, capisci? Sì. Cioè, cacchi, qualche filettino che fa contatto all'interno, capisci? E tu sai meglio, sì, capisci a metà di un burretto in casa, prima che tu di fura, ma poi dico, ma se tu senti che c'è, ma fatti gli alzabili, tre figli, però, ripeto, non passiamo mese, a ogni tanto lo facevo andare, ma non lo so, andavo, controllavo, dopo mi tuffavo e lo lasciavo, allora cominciamo le domande, oppure la mattina e la sera. E infatti, a mattina stavo parlando del bacchino, non so, Marino, cazzo, e così ero un cappello in mano, spegnendo la guida, tocco l'antenna di chiudere la corrente. E infatti, anche io sto chiedendo il pacca così. E ecco, infatti, credo. L'ho acceso, però non c'è modulato e perché stavo facendo quel lavoro. Potrebbe fare anche l'acqua, perché non ci verrebbe per questa corrente, non c'è, hai capito? Non ci verrebbe. Corrente sulla parete non c'è detto, perché la luce vuota certamente, cazzo. Però con questo infatti non me ne va perché non è a posto questa parete. Mentre l'accendo, però lì si fa quel lavoro, piccolissimo. Però dicendo, ho cambiato tre alimentatori, tutte e tre cavi di alimentazione. Tutto, ma è una cosa che non ho controllato. Ha smontato l'affogatore e cazzo, ha cercato tanto di giri, tutta la fa e la guida è basta. E basta allora. Stavo parlando però senza sapere che c'era distorsione, capito? Non è successo niente perché ci vedo ogni giorno, per cui eventualmente magari la sera non succedeva niente, capito? Prima o poi devo fare controllare perché il corrente non si deve essere pronto, capito? Quale? Ma no, ancora non l'ho passato a giustare, quello qua se me l'aggiustavano quello là, devo telefonare questo, l'ho controllato, non c'è pensato bene, capito? Per cui l'unica soluzione è a telefonarli. Se me lo riparla io lo spedisco, capito? Sono salito. Non si è salito. E sono andato con l'altra, capito? E l'ho avuto senso, e lo si è salito. Ma gira, non vale la pena almeno aiutare quello lì. Magari. Ah, che cazzo, stavo provando di aprirlo, ma te non sono riuscito a aprirlo. Questo qua che sto addirittura mollata, capito? E all'interno, però non sono riuscito a mollare. Non mette la calzata, mi ho tolto tutto, però non sono riuscito a togliere il circuito, nulla, non mette. Era ben spaccato, la cassata mancava di più. Ma non ti fregare, io non ti prego, mi chiedo di fregare. Quando cazzo sta, glielo dico, che me lo metto a posto e vuole, se no non mi interessa, capisco. Per cui adesso la mia lato, se ci tocca quello lì, poi mi dà mano, ragazzi. Dai un gioco con questo, sto mangiando un gioco di lì. Ma vedi, anche se non ho, anche se non lo accendo, non si accendeva, perché come si fa, non mi sa che basta accendere. Ecco, boh, anche se lo devi scrivere, se è facile. Sì, appena che ho mangiato oggi, mi sono entrato qua e stavo provando a vedere se trovavo il sistema di quella distorsione. E da buon dico, cosa fai? Stavo a fare la campagna, con la campagna, a ripresa, a riguardo di una eventuale, per dire. E dice che era già un giudizio, per cui l'ho lasciato, so già, però parlo ugualmente, infatti non succede niente, perché è normale, non vi faccia difficoltà a uscire, no, esce ugualmente, anzi adesso lo faccio sentire là. E tanto, scusate, perfetto, questo è macchina a cattivo, mi sento perfettamente, perfetto, tanto siamo lì, mi sento perfetto, ha finito che c'è messo in magazzino, ha finito che c'è qualcosa che mi serve, tendo e salgo, vai. Peppa, allora, va alla teoria. Hola. Manuè, ehi. Così direi, sì. Così direi, sì. Allora, che era così, a mezz'ora. Ma c'è quello di mezzogiorno, perché io la faccio anche per la sera. Ah. Beh. Ma non sei scendito su Manzano? Stamattina sono uscito la notte, tutta la sera. E poi sono andato verso la campagna, San Camillo. E lì dovevo portare del materiale in campagna e poi sono tornato. Ah, va, andato lì? La mia coniata, qui a Magliatoga. Ah. Ah, lì, a tre ruoti? Sì, va bene. Ah, va bene. stato mai chiaro Marco, già. E io stamattina siamo saliti a Piazza di Segno, la posso andare, abbiamo fatto il giro, la facciamo entrare di giro, perché ne seguiamo qui. E dopo mi sono messo a guardare quella la roba, e basta, boh. E io se vuoi fare, ma... Ora non riesco a fare il macchino, il mazzano, il giorno. Sai, è una cosa bassa, mi manca il tempo, guarda. Quindi oggi era una bella giornata, eh. Oggi si stava bene, non c'era sete. Cazzo, ma un'altra rimane, mi ha voluto. Infatti. No, oggi si stava bene. Infatti, appena ho pranzato, ho detto qua, mi sono sdraiato un pochettino e non riuscivo a dormire. Allora, detto, adesso me ne ha pensato che a stasera in campagna ho fatto un po' di mandaraggio e me ne sono salito. Un'oretta, stasera è salito. Un'ora. Vabbè. No, adesso mi sto a fare la mobilità, la gira. Basta, Manuè. Manuè. Dove volevo un pezzo di giovante? Non è mai. Era male per babbo. E allora? E domani bisogna andare, torno in campagna, dove va? Domani a casa, domani a campagna. Come da te, non si lascia la roba. Mangiare, devo andare alla dottoressa a farmi l'impegnativa che mi devo fare l'elettrocardiogramma, se fosse l'impegnativa andrei da domani, devo andare a fare E aveva cominciato la tifia e ai figli avviati per freddo avviati prima che per altro fugati avviati drugati insomma non c'è mai contento ma che beh dopo inizio per un po' più poco la notte cazzo avviati poi un cavallo lì da me manca l'alito mi manca la donna mi manca la vera mi manca la sanduisci che aspetta la donna di tutto il reato mi firmare io ci ho pensato di casa ma anche me l'avrebbe fatto più mi parlava di tutti gli occhiali io senza occhiali tanto per un sole non vedo nulla. Tutti i tanti si va a parlare, che è quello che stava a minire, il cammino, casino, cazzo. Io lo so, sì, io lo so, è un casino, sì, ma lui sa che si va, io lo so, perfetto, abbiamo qua, sei il dottore. Tacchi. Fiorino, no? Invece di dare un barichio, cazzo. Pace e fuoco, buonasera! Tirami, dice Emanuele, siamo a cui. Buonasera anche a lei, ciao Emanuele! E allora tu, cos'è che hai combinato tu? Sono appena rientrato, ero la mia figliola. Stasera non vero che sono andato in officina a farmi cambiare la batteria, poi... mangiando è partuta si è arrivato a rimbocci, ha giustudata, entra nei bocci, esce la poggio in moto. Ma la batteria è la vecchia carta, quando si era aiutata per questa batteria vecchia. Insomma, non è la vecchia, è la... che non me l'aveva di Ravona. Poi la va, l'ho parato un raggio. È fatto bene, allora adesso nuovo, è fatto bene. A me è poco di tanto fastidio, quando la macchina si fredda da voi lo fa. Magari la voce con un giraffetto, i cazzo che lo passi, cazzo è un casino, è più giù la cazzo. Oi! E allora no? Già questa poco lì. 170 euro. Addirittura, ma è che cazzo a fare? Oh, devi dire, io non l'ho vista, non lo so. Da quante ampere è? Però è alta, è paghi sta macchina. È grossa la batteria, è mezza mamma. Qui va pagata da 45 ampere. No, qui chissà è un bel più alta di 45, mi pare che sia 70-80 ampere. Cazzo, sono presentuito. Sono andato, 85. No, ho 75 di bagata, cazzo. Cosa? Cazzo? Capisci, se vuoi diventare ricco dai fatti dell'altro. No, io sono andato da mio genero, l'ha ordinata stamattina e stasera gliel'hanno portata, ma ha chiamato, andava a rigingare i 4 e mezzo e rigingare. Ebbene, io mi cambio di voi, per poter fare la partita. È molto importante in macchina, ragazzi, se non ti la freddo. Infatti, io fa così bisogna fare. Da far così, l'unica cosa è far così. Poni la roba e boh. 2 anni di garanzia. Finché dura, arrivederci. Manuele, attenzione signor Bacchisio. Eccoci tu. Ma Bacchisio non si è sentito, no? No, non c'è più nessuno. Ho chiamato anche a Marino, niente a fare. E se non c'è il medico a casa? Il medico? Perché? Mal si sente. No, perché stamattina è andato a fare delle lastre. E stasera non so se veniva il medico, boh. Non so. Mamma mia. No. Addirittura, povero cazzo oggi. Buonasera. Fai un macello così poi ne andrà a visitare due cazzo, non si può battere in doppia a entrare, un macello speriamo che si può rimetta il prezzo possibile cazzo. E la questione sia è se tu fatti un video che spinge ancora così è troppo. E lui già. Purtroppo bisogna stare attenti ai inconvenienti. Ma certo. Bisogna sempre stare le cose che giù è, certo. Ma che ce l'ho fatto di esibire, devo cazzo dice, è un falso. Cazzo, è una cosa più grave, capito? Inizio d'infarto quello, Inizio d'infarto l'ho avvisato e ha fatto bene, ci ha mandato subito una bombetta. Si aprono le arterie e non va bene andare, sin che dura. Già, per carità, ogni tanto vedi una cazzo. Non vi becchiamo. Purtroppo sì. Che c'è un bel colesterolo che non si è controllato. Quella è cosa di colesterolo parecchio alto, mi. Sì, perché così, se aveva problemi, ti ricoveriggiani a poi a Baidani. Ti attaccano a pompetta, ti tolgono tutte le istruzioni che c'hai nelle vene e arterie. Sicuramente ci avrà avuto qualche arteria chiusa. Io lo so a chi quando ero nelle cose che ero nelle ambulanze e coso, gli infarti ne vedevo parecchio. Infatti quando ero travagliando venera un medico travagliando e è giunto un infarto in questo momento, se non vero io non si era già arrivato. Oggi ho cominciato a pompare i rugoli, a vedere. Sì, insomma, dall'ambulanza si erano imbuttati i camminelli. Anche se no, aveva visto. È un casino adesso, non puoi venire andare a trovarlo, non puoi andare giù. Tramite il telefono, il dottore ti chiama. Ultimamente voglio ricoverare il figlio, infatti, cazzo, quando fatti grandi ciuli, cazzo. Per cui per una guida cazzo, ma nessuno poteva entrare, però male che era Giovanni e portava la roba a lui, poi non lo facevano entrare nemmeno a lui, suonava e lavava il infermiere mi la portava la roba, si può immaginare. Già chiama il medico e ci dice cosa portargli. Qualcuno dei familiari e poi deve arrivare lì. Ti fanno salire su e dall'infermiere e poi te ne devi andare. E così è. E a me per la diabete, che mi è abbassata la diabete cazzo, a 40 zinchi per la via. Così che non vedevo più, cazzo, boh, ero cazzo, terzo cosa mi hanno avuto e allora mi sarebbe stato a sopra, ma nel ricoverato, capito? Si chiede, è una guida dire, Quando ti si abbassa così, Giomari, devi camminare nei bigliati una garamella, devi avere appresso di garamella, devi avere appresso. Una garamella ti scatta subito. È vero, ma ti ho fatto l'insulina, e chi siamo arruinati di più, capito? No, devi, quando è così che ti si abbassa devi prendere una caramella. Infatti il medico me lo dice sempre, io che gliel'avevo detto che mi si abbassava, ma ha detto caramelle ci porti appresso, due o tre caramelle ci porti appresso. Ma io invece non comprendevo più nulla, che cazzo io pensavo fucile, senza misurarmela, a voi me l'avete misurata ed era un bel basta, era che mai me l'ha successo. Così che cazzo però non abbassa mai. E una volta io ho fatto a me, mi ha detto, manda così basta, e cosa non deve fare, nessuno deve fare nulla, deve solo mangiare roba dolce e basta, capito? E fa, invece io ho fatto l'insulina, insomma mi ha capato di più. No, a me dall'inizio me l'aveva detto il medico, se li abbassa ci porti appresso delle caramelle quando sta camminando e cose, ok? Ci porti delle caramelle appresso e si fa, se mangia subito, se vede che c'ha dei capogiri e coso, vuol dire che se gli è abbassata la glicemia. A me mi farà da 70 zinco, mi farà da lì in quella maniera. Ho mangiato una caramella e mi è salita subito. E a me era basta, un bel basta, so. Infatti Luca dice, non dovevo fare quello, invece dovevo mangiare qualche cosa di dolce subito, e me l'ha passato subito, invece io non comprei il biglietto, ma ci ho fatto l'insulina e mi ha aggravato subito, mi ha ricoverato, per cui io carità, e penso che era una chiesa che domani dopo l'entra di su nessuno cazzo. Bene o male, ripeto, che era me di Bodhi che lavora lì e mi portava quella roba lui, capito? Non aveva niente, ma con telefono non aveva nulla, perché non sarebbe stato così improvviso, se non veniva più. No, a me dall'inizio me l'hanno detto di questo fatto qua, quando mi hanno trovato il diabete, mi hanno detto il giorno che gli scende si porti sempre appresso delle due o tre caramelle, si porta sempre quelle cose lì, quando se li abbassa si prende una caramella e sale subito. Infatti, così non vedevo che vi raggio. Faccio così e mi basta subito, mi basta. Sì, adesso già lo so, già perché me la volete. E per cui, certo, devo fare come insegnante, mi andrò da verità. E per cui, mai basta, ragazzo con diabete, mai basta così, così poco, capito? Ah, sta sì, però basta mai. E dice, ma... ma guarda un dio, che ha anche fatto il suino per sbagliarsi cose. Vabbè, vai Emanuele. Ehi, ehi, ehi. Lui sì, per carità. Io già lo so, ma a me camminando mi farà un bel di voce, mi farà. Quando cammino un bel. Arrivo a casa e so go, di mezzo in bandienti. Allora subito mi mangio qualche pezzo di pane, qualche cosa nello stomaco, subito mi risale. E la sua magari. La mia non è mai a bassa, massimo a dare su 120, 100. 125, capito? La più bassa, di nuovo sempre 145, 160, 170 anche, e anche cose più, anche voce, secondo quello omaggio, capito? Però cambiate, cambia basso è pericoloso, capito? No, a me mi fanno di quella maniera, mi fanno... E adesso questo medico qua, a gennaio, quando vado... sicuramente mi dà la macchinetta con i cosi, con le strisce, mi darà sicuramente a fare sempre il controllo. Vi raggio la macchinetta, ma non devo più usarli. Sì, a me mi l'avevo, io ho cambiato tre o quattro macchinette, io che ho ancora questa pensione, la stanno funzionando bene. Tutti i due nuovi, a me, mia moglie, anche lei mi ha detto, però lì non mi fa insulina, mi lascio la pastiglia lì e basta, ma io faccio insulina, mi dicevo, io poi me la controllo sempre, capito? Certe volte controllo la mattina, ma prima del pranzo e la notte prima di sera, e certe volte magari non controllo il mangiando, ma con il mezzo controllo solo la luce, ma ogni tanto, capito? Io di solito faccio ogni giorno mangiare un due e due, capito? No, a me mi... adesso mi sto tenendo in coso, in linea, sto camminando e mi sto tenendo un po' giusto, mi sto tenendo. Poi mi hanno graduato a me un abizzo, che c'ho, mi sale la pressione, mi sale anche. Io lo faccio, per volte c'è il libretto, quando me la misuro e me lo scrivo sul libretto, a quanto è, quanto lo è, capito? E dopo lo faccio vedere all'autoressa io, dopo il libretto. No, a me ultimamente non ne stavo più guardando, perché adesso so, quando ho la pressione alta vuol dire che ho anche la glicemia alta. E quindi so, mi sto regolando lì così. Devo fare il cardiogramma dopo domani. Faccio per le mattine per andare a fare l'intagliativa all'autoressa, quindi dopo domani devo andare a fare l'elettrocardiogramma da Pitali, mi piace anche fermo. A me chissà quando adesso quest'anno, il prossimo anno, quando vado dal medico me lo dirà se devo fare il cardiogramma o no. Perché lo devo fare, mi ha detto che lo devo fare ogni anno, non so se me lo mette, boh, speriamo di no. anche se no andiamo male, andiamo. Anche io lo volevo fare su a... a cosa, in vera... come ti si chiama lì? Su a Serra Secca. Lì lo facevo sempre. Poi ultimamente mi ha portato a, a farlo in via Tempio. Ah, a Corte mi sembra. E ha fatto varie volte a Corte, mi capisco. E dopo il secondo perché posso, ma più adesso per l'appuntamento, perché dopo il che posso, ho fatto l'ecografia alle gambe io, che l'ho fatta a Platamona, l'ho fatta, capito? Puoi immaginare. Secondo me c'è il posto, capito? Infatti. E adesso vediamo quando vado dal medico cosa mi dice. Tanto devo il 27 dovrò andare a fare le analisi, sicuramente. Io devo fare questo. Va bene, devo andare da ammazzo se lo dà. Mi puoi immaginare che la gente fa cura, però non vado a fare un male, non vuoi più perché ho un programma, una volta che vado via mi fa fare tante analisi, mi fa controllare un po' tutto, capito? E certo non mi lascia vicino, e poi è bravo, molto bravo a questo, tutto mi fa fare. Ho fatto anche per gli occhi ultimamente, lì alla la casa mutua, allo sculisco, per quello li devo portare, quando vado male li devo portare, capito? Dopo devo portare l'elettrocardiogramma, pure tutto, capito? Io l'ho già fatto, io ho fatto il 29 settembre l'ho fatto. La visita oculistica, però me la faccio anche a conto mio, me la faccio. Adesso vedo a dicembre quando accompagna mia moglie e ci vado anch'io. Se me la fa o se no mi dà l'appuntamento a gennaio. Quando è ci vado? Hai capito? E faccio gucci foto. Me la faccio anche a conto mio, me la faccio. Ma chi? Il marito come sta? Ma chi? Non entra più, no. Ormai è... sicuramente entra domani. Sicuramente abbiamo fatto la visita, ci avrà avuto il medico. E vabbè. Ah, Gianmarì, sono le 8:05. Ci risentiamo domani, ci risentiamo. Ok. Ciao Gianmarì, ci sentiamo domani. Buona carica e tutto quanto, ok. Ciao Emanuele, se ci sei, ok. Ciao Emanuele, che è pronto? Ciao, come? Ciao Gianmarì. D'accordo, sentiamo, scusa, c'è qualcosa. Vabbè, ciao Emanuele.